aperte le porte sull'ignoto. Apri il tuo cuore per non cadere nel vuoto. Scrivi la tua storia, ma scruta sempre nel futuro. Dipingila nei colori più belli, anche nel silenzio più scuro. Non potrai trovare scuse se il tuo mondo cade a pezzi. Non assecondare le paure di sì a nuove avventure. Lascia stare il passato, non si può tornare indietro. Lascia vivere quel bisogno disperato di vedere ogni giorno in una luce nuova. Non potrai voltarti indietro se il cambiamento ti guiderà. Non sarà solo il piacere di un momento, ma il frutto dolce di una solida realtà. Non potrai trovare scuse se il tuo mondo cade a pezzi. Non assecondare le paure di sì a nuove avventure. Lascia stare il passato, non si può tornare indietro. Lascia vivere quel bisogno disperato di vedere ogni giorno in una luce nuova. Lascia stare il passato, non si può tornare indietro. Lascia vivere quel bisogno disperato di vedere ogni giorno in un altro.